prossimo. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La prima puntata in diretta del nuovo anno di RadioTube. Daniele, buon anno. Buon anno. Che adesso devo fare una cosa. Tu dai gli account e l'hashtag, perché io devo sollevare un po' il microfono. Adesso faccio un po' di rumore, aspetta. Sì, fai il gesto tu quello vai, dello sfumare vai, vai. La radio. No, sfumo, no, chiudo allora, il mio microfono, vai. Meno male che non devo dare. Ah no, gli sms lo posso dare. 349-238-6666. Che va bene anche per i WhatsApp. 349-238-6666. Invece, per quanto ci riguarda, quindi Twitter, et di Bellasio, et Marta Cagnola, hashtag cancelletto radio tube oppure cancelletto ISDV. Esatto, ho tirato su un po' il microfono perché non so come mai si era un po' anche mio, accasciato. Adesso io lo tiro su dopo. Adesso, allora, torniamo a Capodanno. Buon anno, 3, 2, 1, 0. Buon anno. Ecco, siamo partiti 40 secondi prima oggi. Sì, strade. No. Allora, no, facciamo un passo indietro. Facciamo, spieghiamo. Perché è la prima puntata in diretta dell'anno, no, sì. E quindi direi che facciamo un po' di puntate precedenti di quello sì. che la rete ha discusso sì. in questi giorni. Ma tanto giorni. È ancora di attualità, perché oggi c'è un'intervista al Corriere della Sera del presidente della RAI Monica Maggioni. La prima domanda è proprio su questo fatto qua, mi pare. Sì, cosa è successo? Allora, il fattaccio è successo la notte di Capodanno. Il primo è quello della notte di Capodanno. Allora, perché chi ben comincia è metà dell'opera. Allora, chi ben comincia l'anno, e l'anno in Rai è cominciato a Rai 1 così. 30 secondi in questo momento, ci stiamo preparando. L'Italia e il mondo sintonizzata su Rai 1, e proprio adesso ci sono gli ultimi 20 secondi. 30 siamo secondi, pronti. 20 secondi. Attenzione. Tra poco anche 10 secondi. Aspetta. 13, 12. 9, 8. Dai, pronto con lo champagne. Pronto? Pronto? Faccio con la bocca. Come Fantozzi? Buon anno! E in questo momento tutte le case degli italiani hanno cominciato a sparare i botti. Tranne quelli collegati su Mediaset. Che hanno detto, no, ma momento. Com'è che quelli? Sai quando, tu guardi col digitale l'altro? Esatto. Brava, io mi ricordo i mondiali, quelli più vecchi. Non vecchissimi però. Non vecchissimi, che c'erano i mondiali su Sky. Io li guardavo su Sky perché mi piaceva il commento, ma sentivo i miei vicini che facevano gol! Ma come prima. Gol? Oppure facevano no! Ma esatto. Come no? Ecco. Era terribile con l'Inter e le coppe. Allora, ti dico cos'era successo invece il mio Capodanno. No, perché c'è un'inchiesta in corso, tu lo sai già. Siccome c'era una mia amica che non aveva mai visto, la mia amica Gabriella non aveva mai visto Fantozzi. Io e un altro mio amico, Flavio. Nessun Fantozzi, così cito i miei amici. Il mio amico Flavio mi ha detto, prima di mezzanotte. Mi ha detto, ma perché non festeggiamo adesso che facciamo il compleanno del maestro Canello? Esatto. E il compleanno del maestro Canello, ma sì, riascoltiamocene un pezzettino. Sì, eccolo qua, il maestro Canello. Alle 10.30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro veglione, barò bassamente annunciando al microfono. Attenzione! Mancano 3 minuti a mezzanotte! Rimettete gli orologi, preparate lo spumante! Aspettate! Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Anche dal maestro Canello. Allora, quindi il colpevole è il maestro Canello. Fermate l'inchiesta. No, è stato troppo divertente, perché noi, dopo aver visto il maestro Canello, che aveva anticipato il Capodanno casualmente di un'ora e mezzo, l'avete visto l'abbiamo prima. Visto casualmente. La Rai ha ma anticipato. Ma tu sei complice, allora lo sapevi. Anche la Rai ha fatto il maestro Canello, non di un'ora e mezza, ma di 45 secondi. Ma ecco, però mi spieghi una cosa. È stato un errore, l'hanno spiegato. Sì, devo dire che poi in rete hanno cominciato a dire, l'hanno fatto apposta per anticipare. Ma tu che sei una tecnica esperta di televisione, di orologi, sono tutto sulla televisione, la tesi, abbiamo già detto. Ma no, iniziamo l'anno nuovo con i vecchi tormentoni. Erano stati 10 giorni che non parlavamo della mia tesi di laurea. Da quanto non ci vediamo? Dunque, ma perché uno anticipando i 40 secondi avrebbe più audience, no? Mica capita sta ma cosa. Ma no, ma anche perché allora, cioè non è che uno che sta guardando di là, siccome è una robina che si fa nei TG e anche nei GR. No, ma spiegamelo bene. Che si, no, in realtà la cosa che si fa è che si anticipa di un minuto, sì, il telegiornale o il giornale radio, perché così tu catturi l'audience prima. Perché sai magari che gli altri sono in pubblicità, eh? Perché tipo gli altri sono in pubblicità, tu hai già cominciato. Però, sì, però, però si fa per il telegiornale. Beh, il Capodanno no, anche perché dai, perdonami, uno non è che lo accende. Aspetta, 59, no, appunto, accendiamo. Non è che uno ha cambiato. Vabbè. Allora, tradizionalmente uno tiene uno dei due Capodanni in TV, quello di Canale 5, quello di Rai 1. Se festeggia il Capodanno in casa, lo tiene magari in sottofondo, magari non lo sta guardando. Ma secondo me il Capodanno è più di Rai, però la giornata di Natale è più di Mediaset, no? Ma ti ricordi quando Mediaset faceva quei bei Capodanni registrati, no, ad agosto? No, c'era sempre Mary Poppins. Ad agosto. Sì, li registrava un sacco di settimane. Ma in che senso? Sì, e Capodanno quindi quelli di Mediaset, erano tutti maestri Canello, quindi. Sì. Ah, cioè lo facevano. E io mi immaginavo questi che maglietta, magari ad agosto no, però a novembre facevano il Capodanno. Che triste. 3, 2, 1, yeah. Chissà quante volte io ho festeggiato amico Charlie. Esatto. Però quel Capodanno lì è successo anche quell'altra cosa. Allora, per questo sto dicendo quei bei Capodanni quei bei registrati. Perché, questo, perché quest'anno, secondo me, il pensiero di quel bel Capodanno registrato, sai a chi è venuto? Non a saprei. Gigi D'Alessio. Cosa c'entra? Povero Gigi. Allora, io voglio tanto bene a Gigi D'Alessio. Oggi povero poi è il Gigi compleanno D'Alessio di Anna Tata. Sì, ho visto che siti ha spento le candeline. Sì, 29, sì, quanto è bella Anna Tata. Giovane, bella ragazza, bellissima Anna Tata. Allora, che hai fatto Gigi? Allora, lo sai che c'erano i due Capodanni in diretta? Sì. L'anno che verrà appunto del maestro No, di Amadeus, di Amadeus Rocco Papaleo, con erano a Matera, no? Erano a Matera. Sì. Invece il Capodanno di Canale 5 con Gigi D'Alessio era a Bari. Tra l'altro con i due trionfatori di X Factor, uno a Bari e l'altro a Matera, no? Gli Urban Strangers perfetto, e Joe Sada, sì. Anzi, Joe Sada e gli Urban perfetto Strangers. È successo che a un certo punto è salito sul palco Gianluca Grignani. Ah. E anche quello è stato molto commentato dalla rete, dai social, perché cosa è successo? Gigi D'Alessio era un pochino imbarazzato. Imbarazzato Gigi? Sì, sentiamo sì perché. Sentiamolo un pezzettino. Me la canti quella lì, Destinazione Paradiso. Fammi un regalo. Ma non mi dai una mano? No, è tua e deve essere tua e rimarrà tua. Guarda. Gianluca Grignani, tutte le canzoni non sono mai di nessuno, sono di tutti. Questo giro tondo l'anima chi si volta verso resta qua. Allora, c'è una parola tedesca. Tedesca, che dopo parliamo di Germania. No, allora, sai quelle parole che non esistono in italiano, no? Quando si dice, allora io mi imbarazzo moltissimo quando ci sono delle robe imbarazzanti anche in televisione e non, io devo cambiare canale perché non. Che ti immedesimi nel conduttore? Sì, o nel cantante conduttore in questo sì, caso? Sì, io mi sento molto in imbarazzo. In tedesco si dice Fremdschämen, cioè quando tu hai un imbarazzo per una cosa che in realtà riguarda altri o succede ad altri, insomma, non so, nei film o in televisione, tu non riesci a guardare, devi girare. Allora, a me questa scena del Capodanno di Gianluca Grignani. E tu hai girato sulla Rai, erano già la Befana. No, dai, no, questo no, l'ho visto dopo in allora, rete. Allora, Grignani era un po' Brillo, pare. E vabbè, ma io sostengo che faccia bene alla sua voce. Secondo me lui ogni tanto questa cosa la fa perché gli viene quella voce ancora più, diciamo, come si può dire, Sturm und Drang. Sì, fagliela dire a Gigi D'Alessio che non sapeva come venire fuori da questa e situazione. E come ne è venuto fuori? Guarda, non so, io ti ho detto, io a un certo punto ho dovuto, cioè detto, non sono riuscita a vedere il video perché strascicava. Poi a un certo punto si faceva non degli inchini a cavo, volta, a caso. Non no è la primissima, no? Era già successo un'altra volta. Sì, era già successo, sì, era già successo. Tra l'altro era anche successo col nostro amico Omar Pedrini che aveva pagato le conseguenze, che se non mi ricordo adesso cerco. Che ha dovuto cantare 3-4 canzoni in più. ma cerco, può darsi, cerco può la cosa perché era successo. Che bello che non abbiamo genere. Parlato della bestemmia dell'SMS. Allora, due cose: la bestemmia dell'SMS, che chi se ne frega anche. No? Sì, vabbè, però posso ma dire. A parte ma... il fatto che voglio dire, grande tecnologia, tu adesso, ma ancora l'SMS che passa sotto. E poi posso anche dire una roba: ma costavano tipo 50 centesimi l'uno. Ma uno deve spendere 50 centesimi per mandare una bestemmia. Ma sì, dico io, ma per favore. Ma soprattutto noi dobbiamo andare a intervistare il tizio che è stato fatto, non sì. faccio il nome da un importante giornale. Vabbè. Vabbè. E poi Claudio Lippi che avrebbe mandato dei tweet a Renzi. Ho bisogno di vederti urgentemente. Claudio ha detto che in realtà lui ne aveva mandato solo uno e poi degli hacker hanno preso possesso del suo account. C'era cioè un direct message? No, era una menzione. Cioè, una menzione, era una menzione che chiedeva chiedere. Un incontro a Renzi, ma lui dice no, in realtà io avevo mandato un tweet, però poi hanno dato un colpo Renzi. Al microfono con la penna. Oggi bene, sono veramente sei peggio di me. Oggi sono proprio. Va bene, dopo di che cosa parliamo? Parliamo ancora di TV, perché parliamo di una cosa molto importante, molto bella, che sono le inchieste. Sì, sono le inchieste. Molto contenta di parlare di inchieste. Adesso sono le 17:15 minuti. Sì, il traffico del villaggio. Ci sarà un po' di traffico, ma guarda, qua secondo piove. Me neanche tanto, perché io ho sentito che non ce n'era tanto prima. Adesso però ce lo dicono dalla redazione tutti gli aggiornamenti del traffico. YouTube. Allora, ci stanno scrivendo via WhatsApp al 349-238-6666. Sì. Qualcuno dice: chiederò danni morali alla Rai perché mi ha fatto fare gli auguri fuori tempo, Mariella. Ma no, in America lo farebbero. Ma ha festeggiato due volte. Ha festeggiato 40 secondi in più. Esatto. Ecco. Ci sono quelli delle isole Samoa che festeggiano il solito servizio. Non abbiamo parlato qualcuno neanche di dice che Vasco lo faceva apposta a Sanremo. Non lo so se lo faceva apposta a Sanremo di fare il brillo Vasco all'epoca. Rossi? Ma Vasco Rossi può tutto. Allora poi poteva. Sai che quando l'ho intervistato a Venezia è stato anche lì imbarazzantissimo. Perché mi ha preso per mano e mi teneva la mano. Ma io ero imbarazzo, sapevo cosa fare. Vi conoscete da una vita. Molto carino. Sì, io non sapevo cosa fare. Una curiosità dal sabato del villaggio. Posso chiedere? Sì. Ma tra i due, chi è che si conserva meglio? Hai detto che sono due gran figli, vabbè. Ah, però Morandi e Baglioni. Morandi o Claudione? Non lo so. Guarda che è proprio difficile. No, è che tu li guardi. Allora li guardi e dici. Però Gianni. Poi però svolti lo sguardo e dici: però Claudio, guarda che non è par condicio, ti assicuro. È difficile. E poi devo mandare un saluto a Anna, la moglie di Gianni Morandi, perché è un amore. Qualche volta dovremmo invitarla a RadioTube, se le va. Sì. Per parlare dei social di Gianni. Perché lei aiuta Siccome Gianni. Poi lei ascolta Radio 24. Ciao Anna. Mi piace come cosa. Sì, ascolta Radio 24. Anna, quando vuoi venire noi siamo contenti che così ti chiamiamo e ti facciamo parlare un po' dei social di Gianni Morandi. Era successo tra Omar Pedrini e Gianluca Grignani quella volta lì. Vabbè, voltiamo pagina. Voltiamo pagina, perché domani... Un grande ritorno. Io adoro le inchieste in TV, lo dico, lo proclamo, mi piacciono tutte. Dipende. Però, cioè, però c'è chi questa... più, chi meno. Allora sentiamoci questo promo. Con i vaccini salviamo la vita. Come mai così tante persone non vaccinano i propri figli e chi sono gli antivaccinisti? Su internet si trovano centinaia di articoli che parlano della correlazione fra autismo e vaccini. Mio figlio ha un fucile, un Kalashnikov. Poi sentiremo la madre di un foreign fighter che ha combattuto con il califfato e ci racconterà la guerra dentro. Gli estremisti puntano proprio sui ragazzini. A presa diretta, la battaglia dei vaccini. Domenica 21:45, Rai 3. E questo era il promo che sta andando in questi giorni in onda sulle TV Rai. Presa diretta, torna appunto domenica 10 gennaio, che è domani alle 21:45. Io lo chiederei direttamente a Riccardo Iacona. Buonasera Riccardo. Ciao. Buonasera, buon pomeriggio a tutti voi. Grazie Riccardo per essere con noi. Com'è questa attesa di questa ripresa di presa diretta? Come sempre, perché abbiamo lavorato mesi per mettere appunto le puntate. Oggi sono passato dallo studio e abbiamo fatto anche uno studio nuovo, un po' più solare, meno meno scuro, c'è uno spazio in diretta della redazione che per me sarà importante, proveremo domani sera utilizzarlo, ma penso che crescerà durante le puntate, perché voglio fornire ai telespettatori non solo, diciamo, l'inchiesta che facciamo, ma anche i materiali sui quali costruiamo questa inchiesta, le fonti, gli articoli, le pubblicazioni scientifiche, nel caso della puntata di domani, perché riguarda un argomento che ha a che fare anche con la valutazione della scienza sull'utilità della vaccinazione di massa, e quindi avremo protagonisti, come sempre, come ci tengo sempre, anche i redattori, gli inviati, le donne e gli uomini di Presa Diretta. Quindi un po' di dietro le quinte dell'inchiesta, bella questa cosa, innovativa. Beh, poi farò anche una bacheca il giorno dopo, che si chiamerà Per la precisione, proprio perché tutte queste cose le possiamo mettere lì, diventano anche un racconto parallelo, cioè c'è tanto, un sacco di gente che poi riflette sulle puntate o le vede dopo e magari ha voglia di fare un approfondimento suo personale, certo. Perché anche su internet gira tanta roba che fuffa, no? Sì. Cioè che non ha nessuna, diciamo, che sono parole un po' così, e su quelle la gente anche si basa per costruirsi un'opinione. Appunto, la battaglia dei vaccini, che è il primo argomento, diciamo che la fuffa, come hai detto tu, su internet sta condizionando tantissimo dei comportamenti importanti. Sì, diciamo che c'è tanta paura, no? Questa paura è talmente forte che c'è un calo vaccinale, cioè non lo diciamo noi, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità sul primo mondo, e che ha aperto anche un focus sulla prima vaccinazione, che è quella equivalente morbillo, rosolia e parotite, dicendo che l'Italia negli ultimi anni è scesa del 2-3%, e ci sono delle zone dove questa discesa è più veloce, no? E questo perché sono preoccupati quelli dell'OMS? Perché si scende sotto la soglia di gregge, la chiamano loro, la soglia sotto la quale, diciamo, le malattie possono poi rispuntare fuori. Casi ne abbiamo avuti, abbiamo avuto anche per esempio un'epidemia di meningite in Toscana, se vi ricordate, un anno fa, no? Poi le autorità sanitarie sono dovute intervenire, hanno cercato anche di fare delle vaccinazioni per gli adulti, insomma. C'è questa preoccupazione da una parte, dall'altra c'è la preoccupazione delle famiglie che vogliono sapere, ma insomma, fanno male questi vaccini, non fanno male, che cosa rischiamo quando vacciniamo i nostri figli? E poi c'è il grande tema, che secondo me è sottopelle, che è quella di correlazione tra vaccini e autismo. Io per questo l'ho messo nello spot, no? Perché è un grande tema? Perché purtroppo sono grandi i numeri dell'autismo, o perlomeno dei disturbi che vengono messi sotto questo nome, no? È la malattia disabilitante per i bambini più grande d'Italia, cioè del mondo, voglio dire, cioè 1 su 100 soffre di questi disturbi qui, e siccome è una malattia sulle cui cause c'è molta incertezza, anche se la ricerca scientifica va avanti, e soprattutto non c'è una cura, non c'è la pillola che guarisce l'autismo, è il classico campo sul quale, diciamo, la paura prende piede, perché per esempio le famiglie che hanno già avuto un bambino autistico, che devono fare? Col secondo lo vaccinano? Certo, oppure no? Sì, certo. Allora cerchiamo un po' di mettere i puntini sulle i, cioè di fare un'informazione più rigorosa possibile dal punto di vista anche delle condizioni attuali della ricerca scientifica, e anche per questo mi sono inventato questa rubrica di precisione, perché è proprio di precisione che abbiamo bisogno. Senti Riccardo, il successo della tua trasmissione è anche dovuto al fatto che le tue inchieste sono anche tecnicamente, dal punto di vista del girato, molto belle, si vede che c'è dietro un giornalista che è anche un po' regista, e per questo sono avvincenti. Io ho trovato, scartabellando su Wikipedia, una buona definizione che vorrei sottoporti delle tue inchieste. Vengono definiti reportage emotivi. Ti piace come definizione? Beh, perché no? Cioè, diciamo, in fondo l'emozione è anche un'energia oltre empatica, nel senso che ci consente di partecipare alle vicende altrui anche se non ne siamo i protagonisti, è anche un modo, uno sforzo per interpretare la realtà, utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione, non solo la razionalità, ma anche l'emozione, per entrare nelle storie che ci circondano. Abbiamo molto bisogno. Nella seconda parte della trasmissione tireremo fuori la storia della guerra dentro, sentiremo per esempio un'intervista incredibile, secondo me, tra l'altro è un'esclusiva per la RAI, a una madre danese voglio dire, cioè non araba di prima, seconda, terza generazione, il cui figlio danese, 18 anni, ha scelto di andare a combattere nel califfato e a morire lì. Allora, pensate la storia di questa madre che per un anno ha inseguito questo figlio, perché si parlavano mentre lui stava a Raqqa, si scrivevano, ci ha dato i messaggi che sono molto importanti, e che ha cercato di capire che cosa è passato nella testa di questo ragazzo, come è stato possibile che sia stato radicalizzato un ragazzo danese al punto di buttare tutta la sua vita e andare a morire nel califfato. Lì se non entra l'emozione non la capisci questa guerra dentro. Cioè la devi capire anche dalla forza propagandistica che ha il califfato nei confronti dei ragazzi giovani e anche, diciamo, poco strutturati dal punto di vista culturale, però come li acchiappano questi ragazzi? Li acchiappano sul terreno dell'emozione. Per loro la guerra santa, combattere a fianco dei fratelli e delle sorelle, è una missione. Poi dopo, quando sono lì, e questa è la parte del racconto bellissima secondo me, diventano prigionieri di quello stato del terrore, perché una volta che sei arrivato in Siria non ti muovi più, certo, da lì, è pieno di spie, eccetera. Questo ci dice la madre. Io avevo la sensazione precisa che lui, qualcuno l'avrebbe voluto tirar fuori da lì, no? Non c'è stato modo, perché poi questo ragazzo è andato a combattere proprio a Kobane, dalla parte dell'ISIS, e lì è morto l'anno scorso. La madre da quel momento in poi è diventata testimone delle altre madri, delle centinaia di foreign fighters, di figli dell'Europa che combattono contro l'Europa. Se pensate che il 13 maggio hanno fatto tutto da foreign fighters, quell'attentato lì, e insieme hanno fatto un'associazione incredibile con la quale cercano di sostenersi a vicenda, ma anche di spiegare all'opinione pubblica europea qual è la partita in gioco della guerra dentro. Riccardo, io vorrei tornare indietro di qualche settimana, quando successe una cosa molto nuova, quasi rivoluzionaria per la televisione italiana. La vostra trasmissione che vi precede, cioè Report, aveva dedicato sorella, sì, cugino, non so come sia. Compagni di banco. Ecco, aveva dedicato una puntata a Leni, un'inchiesta, non a parti in diretta Report. E quindi la risposta dell'azienda era arrivata in diretta sui social, quindi la TV si era legata intimamente ai social per una sorta di botta e risposta a distanza. Tu cosa pensi di questa cosa? Appunto, Report non ha parte in diretta, ma l'interazione così come secondo schermo sui social per quanto riguarda appunto le inchieste televisive. Beh, insomma, loro intanto hanno risposto a un fuoco di bombardamento, diciamo, non so come chiamarlo, che ha fatto Leni durante la puntata. Erano stati chiamati a essere intervistati, no? Hanno detto di no, poi dopo però non gli è piaciuto il contenuto del servizio e hanno sparato, diciamo, questi tweet di precisazione, e loro giustamente, anche se non stanno in diretta, stanno in diretta a casa con il computer pronto, e hanno risposto, hanno detto le loro ragioni. Ma io devo dire che trovo sempre più interessante questo doppio racconto che si può fare, per questo lo voglio anche arricchire, cioè non semplicemente fare diventare i social come una cassa di risonanza in cui pubblicizzare i contenuti che stai mandando, come facciamo già da parecchio tempo con il nostro Gaetano Colloca, che fa una vera e propria diretta Twitter. Quindi questa parte qui la voglio sviluppare e voglio dare durante la diretta, per questo a questo stiamo lavorando, altri materiali in più anche rispetto a quello che vediamo, in modo che, diciamo, anche quelli che per esempio non sono d'accordo con quello che vedranno domani sera potranno cercare le ragioni delle nostre posizioni o delle posizioni in questo caso della scienza. Ma su questo si può fare tutto. Perché dico questo? Perché il dibattito, anche politico naturalmente prima di tutto, ma anche sociale ed economico, è tutto inquinato dalle opinioni. Cioè, insomma, in Italia la gara è a chi vince la battaglia sul piano anche forse un po' demagogico, e i fatti contano poco. Certo. Quindi se torniamo a fare mettere nero su bianco i fatti, e per questo penso che sia, hanno fatto bene, diciamo, Report a rispondere in quel momento lì. Riccardo, dimmi. Volevo chiederti una mia personale curiosità: di tante inchieste, qual è stata quella più difficile? Ma guarda, diciamo, sono tutte difficili, ma sono tutte anche facili, no? Cioè, non voglio dire, siccome sono inchieste faticose, perché cerchiamo per farle, molto per montarle, perché cerchiamo sempre di, anche dal punto di vista formale, che siano perfette le immagini e così via, però, diciamo, perché dico che sono facili? Perché in realtà se tu cerchi trovi, ecco, questo voglio dire, è l'abitudine a cercare che il sistema dell'informazione italiano ha un po' dimenticato, anche quello quotidiano, voglio dire, no? Io dico sempre che dovremmo recuperare nel DNA del giornalismo italiano lo spirito dell'inchiesta, anche quando si fa un pezzetto di tre minuti, certo, no? Sempre cercare, perché se cerchi trovi. Bello. Bello, Marta, se cerchi trovi, sì, mi stavo... se cerchi trovi il pulsante, rosso. Sì. Riccardo, mi prende troppo in giro, Daniele. Sono niente, avevo bravo conduttore avevo perso l'abitudine dopo due settimane non in diretta. Di io domani sera sul divano davanti alla TV 21:45, Rai 3. La battaglia dei vaccini, questo è un argomento che mi interessa tantissimo, voglio saperne assolutamente di più. Grazie a Riccardo Iacona per essere ciao, stato con lavoro. Noi. Grazie. Grazie a te Riccardo, domani compresa diretta. Ma ce l'abbiamo il tempo dei saluti? Un salutino sì, rapido prima sì, alle sì, ragazze del bar Tabacchi Rendezvous di Portico di Caserta. Adoro quando ci ascoltano dai bar. Ciao. E quando ci danno degli eclettici, grazie, mandateci tanti complimenti, noi vi mandiamo tanti saluti. Daniele è tutto contento. Allora per ragazze, una volta grazie che ci elogiano. Grazie per questo messaggio. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, abbiamo una breve pausa. Sì, ho ancora un paio di cose da commentare, tra poco. YouTube. Rieccoci insieme con RadioTube, 349-238-6666, i vostri sms, i vostri whatsapp. Per quanto riguarda Twitter ci sono i nostri account, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola Di Bellasio. Allora, c'è Giorgia che chiede su Twitter se le posso ripetere la parola tedesca sull'imbarazzo per le scene imbarazzanti. Fremdschämen. È che non c'è in italiano, e non c'è in italiano, c'è. Anzi, tra poco ci colleghiamo anche con la Germania. Poi c'è un messaggio invece via sms sul capodanno. Cosa volete che sia anche un minuto? Mettete che l'orologio di Rocco Papaleo era avanti di un minuto, per cui sono polemiche inutili. I problemi della RAI sono altri, come il pluralismo democratico, e non una trasmissione di cazzeggio di San Silvestro. Io sono d'accordo. Sì, certo, io sono d'accordo. Infatti, ci abbiamo scherzato detto un po', però insomma, è sempre la festa di capodanno. Sì, e poi volevo rassicurare, io lo so pronunciare l'inglese, però non, allora se lo pronuncio troppo bene mi prendono in giro. Ti prendo perché in giro sto a fare, io, sì, perché sto a fare la pronuncia. Allora ragazzi, lo dico, la Cagnola peggiora il suo inglese per non farmi sfigurare, quindi piantatela di dire, e lo fa apposta, perché lo se faccio, lei dice la parola giusta io faccio capito, faccio sì, le faccine, è vero, è vero, e allora lo fa normali. Allora voltiamo Globish pagina, voltiamo perché pagina, tra quello che è successo negli ultimi giorni, sono... tra l'altro sto guardando in diretta dal sì, sito del Sole 24 Ore, che siamo proprio in presa diretta, come direbbe sì, Iacona, sugli eventi, perché è stato appena sospeso il corteo della, diciamo, della destra più estrema che c'era oggi a Colonia, sì, dove c'erano due manifestazioni e sì, quindi si temeva che ci potessero essere degli scontri, e insomma per il momento sembrerebbe che la polizia abbia sospeso il corteo della destra, mentre contemporaneamente c'era un corteo antirazzista. Abbiamo sentito gli aggiornamenti da Raffaella Calandra nel giornale radio delle 17, tra l'altro torneremo a collegarci con lei nel giornale radio delle 18, probabilmente, anzi sicuramente. Allora Colonia, facciamo qualche passo indietro, torniamo sempre Capodanno, alla... sì, sempre alla notte di San Silvestro. E non erano fuochi d'artificio allegri e festanti quelli che sono scoppiati nella notte di Capodanno a Colonia. La notizia in realtà si è diffusa poco a poco. Molte donne che sono state molestate, al momento era molto difficile anche parlare di quello che era successo, capire, e di come per la era successo. È ancora difficile capire. È ancora difficile capire cosa è successo la notte di Capodanno a Colonia, ma non solo, ma soprattutto a Colonia nella stazione ferroviaria, donne avvicinate con fare minaccioso, donne palpeggiate, donne derubate. Insomma, una storia davvero difficile da raccontare, e che ha cominciato a girare sui siti stranieri, sui giornali stranieri, poco a poco in rete poi tanti racconti e anche un hashtag Eine Armlänge che è arrivato da questo discorso. Wir haben heute morgen gemeinsam Maßnahmen entwickelt, die dazu führen sollen, dass es solche Vorfälle hier nie wieder gibt. Il sindaco, qualcuno dice, preferisce usare la sindaca, la sindaca. Io sono... Siamo per il neutro, come... No, io sì, io sono ancora... Non credo che sia qui, però, insomma, non credo che sia... sia sostanziale. Sindaco di Colonia Recker che diceva, che dava una sorta di codice di comportamento per le donne: state a distanza di un braccio dagli estranei. Anche qui si era diffusa la notizia che lei avesse detto estranei oppure stranieri. È difficilissimo raccontare quello che sta succedendo in Germania, è difficilissimo valutare quello che sta succedendo in Germania. Io in questi giorni sto leggendo con grandissimo interesse quello che scrive una bravissima signora italiana che vive da un po' di tempo in Germania. Io vi leggo la sua bio così come la scrive su Twitter, su il Twitter Senior Consultant Sales, Camera di Commercio Italiana per la Germania. Poi lo scrive anche in tedesco, ma evitiamo di pronunciare il tedesco perché se già mi criticano per l'inglese. Buonasera, con grandissimo piacere, ad Anna Paola Concia. Ciao Anna Paola. Ciao. Ciao Marta, che ciao bello Daniele. Averti a Radio Tube. È stata anche parlamentare, diciamolo. È stata anche parlamentare del PD, perché è giusto dirlo. E poi si è trasferita in Germania. Cara Anna Paola, le tue parole, io ti dico, le ho retweetate, lette con passione sull'Unità Online. È difficilissimo parlare di questo argomento. Ho ascoltato, questo è vero. Guarda, la situazione è incandescente anche qui, anche in Germania, molto. Voi avete visto, noi abbiamo la televisione accesa sulla TV tedesca, e la situazione è davvero incandescente anche in Germania. È stata come una bomba, come una benzina sul fuoco, su un fuoco che già ardeva parecchio. Io ti dico solo che sono arrivati da settembre 500.000 profughi e da Capodanno sono arrivati 18.000 profughi, solo da Capodanno, di 9 giorni, per cui questa già era una situazione molto incandescente. E la vicenda di Colonia è molto difficile, perché intanto è stata una cosa molto insolita. Certo. Colonia è una città che tutti conoscono, anche molto allegra, molto friendly, molto aperta, ma anche una città complicata perché c'è molta delinquenza, insomma non è neanche solo rose e fiori, però è una città molto aperta. L'ultima notizia su Colonia era della sindaca che è stata eletta qualche mese fa, dopo essere stata accoltellata qualche mese fa da uno xenofobo, perché lei è una molto vicina agli immigrati, era direttore generale del Dipartimento Affari Sociali del Comune, molto favorevole all'integrazione, e questo l'ha accoltellata il giorno prima delle elezioni. I coloniesi, che sono un popolo particolare, l'hanno eletta sindaco per far capire che loro sono una città aperta, per cui potete immaginare quale bomba esplosiva è potuta scoppiare, che cosa è diventata la vicenda di Colonia, cioè la notte di Capodanno, una città allegra, aperta, in cui centinaia di donne vengono molestate pesantemente, pesantissimamente molestate, 2 denunce di stupro, 170 denunce, furti, molestie sessuali da una marea di uomini immigrati, insomma di nazionalità straniera. Quindi potete immaginare che bomba nucleare che è stata per tutta la Germania. Sulla sindaca dico solo questo: lei si è scusata, perché oggi io ho sentito le mie amiche a Colonia, giornaliste di Radio Colonia, che mi hanno detto ma com'è la situazione tra le femministe che stanno, cioè le donne, non solo le femministe, oggi le manifestazioni anche molto di donne, certo, tedesche. Tra la sindaca e le donne, dice no, è tutto risolto, perché lei si è scusata pubblicamente, e tu sai come i tedeschi sono sensibili al fatto che uno si scusi. Lei ha capito di aver sbagliato e va bene questo, però poi oggi, adesso insomma, ci sono un sacco di notizie, su questa vicenda comincia a delinearsi una situazione in cui a Colonia è, vabbè, è quella dove è successo, sono successe le cose più eclatanti, no? Più grosse, la quantità. Però ad Amburgo 100 denunce, sì. A Düsseldorf un sacco di denunce, a Stoccarda un sacco di denunce. Sì. È un po' strano, cioè questa coincidenza. Ecco, ma Anna Paola, il punto è proprio questo. La domanda che volevo farti è la seguente. Sta crescendo l'idea che fosse una cosa in qualche modo premeditata e che quindi sia proprio, lo spiega abbastanza bene Annalena Benini in un bellissimo pezzo oggi sul Foglio, che sia proprio in qualche modo il modello tedesco di accoglienza e di integrazione messo nel mirino? Magari non sarà quello l'evento premeditato di per sé, quello di Capodanno, però insomma si sente la Germania e il suo modo di accogliere gli immigrati al centro di un'offensiva che utilizza anche strumenti così pazzeschi? Sì, pazzeschi. No, dunque, intanto io oggi, l'unità, il mio pezzo l'ha titolato strategia della tensione, perché chiaramente in un paese dove ti ho detto i numeri dei rifugiati, cioè un paese in cui ha deciso di aprire le sue porte, qualcuno dice coraggiosamente, qualcuno dice incautamente, comunque Angela Merkel, non un paese, la cancelliera, un paese che ha detto noi dobbiamo rinnovarci, noi dobbiamo aiutare i popoli che sono in guerra, noi ce la possiamo fare, la Germania ce la può fare, è un paese. E quindi no, è diventato un esempio per tutti. Certo, in un momento in cui arrivano tutti questi popoli, in cui ci si sta organizzando, perché non è che la situazione sia un pranzo di gala, Certo. È ovvio. In cui si sta organizzando, arriva questa bomba. E arriva questa bomba in una situazione in cui Angela Merkel si è esposta tantissimo, lei si è fatta un sacco di nemici su questa vicenda, cioè, noi lo sappiamo, i nemici sono nel suo partito, i nemici è Pegida che adesso hanno bloccato la manifestazione perché lanciavano sassi e sono estremisti di destra quelli di Pegida. Pegida, Alternative for Deutschland, l'altro partito che succhia voti anti-immigrati, che succhia voti al partito della Merkel, lei c'ha un sacco di nemici. È chiaro che una bomba così frena il processo grosso di intanto di accoglienza dei rifugiati, ma anche il modello tedesco di integrazione. È chiaro, certo, che è questo. Infatti, che cosa hanno dovuto dire? Nonostante, cioè, è chiaro che devono... La Merkel adesso, poco fa, è intervenuta e ha detto noi dobbiamo essere più severi con i recidivi. Vabbè, voglio dire, non è una cosa... Viva Dio! Non è una cosa... Leggo dal... Non è dal, che ha detto una cosa dal, così terribile. Dal Twitter del TG di La 7, che sono stati, secondo la polizia, l'ha reso noto da poco, 379 i casi di violenza su donne a Capodanno solo a Colonia. 379. Io proprio sono molto sensibile su questo argomento. Infatti il tema qual è? Cioè, la Germania è sottosopra, le donne tedesche sono fuori dalla, arrabbiatissime, perché con questa cosa che cosa si è colpito? Cioè che cosa simbolicamente, anche simbolicamente non solo, anche diciamo fisicamente, è il simbolo della libertà occidentale, cioè il simbolo della libertà femminile. Certo. Questo è il tema, cioè la libertà femminile che... distingue molto, cioè è un tratto molto distintivo di noi occidentali e gli arabi, alcuni paesi islamici, no? Qui le donne non sono, non contano niente, ma sono anche fatte oggetto di qualsiasi cosa, vengono ammazzate. E è chiaro che quello è l'elemento più forte, no? Cioè simbolicamente tu colpisci al cuore la cultura occidentale. Certo. Anna Paola, io ti chiedo solo un attimo di pazienza perché dobbiamo dare il nostro aggiornamento del traffico, 17:45, ci sono tante persone che ci seguono mentre stanno guidando. Poi devo chiederti un'altra cosa perché voglio chiederti qualcosa sulle reazioni a quello che hai scritto, tra un attimo. YouTube. E rieccoci insieme con RadioTube. Arrivano anche dei messaggi al 349-238-6666. Cecilia, ecco, dice: non vi siete posti la domanda su quante donne possono essere state molestate o Brindisi la notte l'ultimo dell'anno? Questa era una cosa, organizzata, direi. Questa era una cosa organizzata, voglio dire, ci sono trovati i biglietti quante con le non frasi lo scritte. Denunciano, non lo mettete, è verissimo, sì. È verissimo, purtroppo è verissimo, però questa era una cosa dalla fisionomia un po' diversa. E io poi, volevo chiedere una cosa. Condivido, scusa, vado velocissimo. Questo sms che dice: la cosa orrenda è che proprio quella notizia è stata diffusa poco a poco grazie ai buonisti. No, secondo me in questo caso non si è trattato di buonismo, di eccesso di politically correct, tutte queste cose. In questo caso si è trattato di incredulità assoluta. Sì, cioè, sì, è secondo una me cosa, anche la polizia tedesca che è stata è criticata è un crimine non capiva nuovo, che non esisteva prima nel racconto di quello che accade nella questo società. Vai, Anna Paola. E poi la polizia, no, è verissimo quello che dice Daniele, c'è stata una sottovalutazione del fenomeno e un'incredulità. La seconda è che la polizia, cioè la responsabile della polizia, la polizia di Colonia, il cui capo si è dimesso, qualcuno vuole che si dimetta, in questo momento qualcuno si ha una polemica e dice si deve dimettere anche il ministro dell'interno della regione, però non nazionale, del Nord Reno. La polizia il 1 gennaio ha fatto una conferenza stampa a Colonia dicendo è andato tutto bene, il capodanno fichissimo, mentre arrivavano le denunce, e infatti il capo della polizia poi il giorno dopo ha dovuto smentire, dice no, quella conferenza stampa sono state dette cose false perché sono arrivate più di 100, appunto fino a 300 denunce. Adesso è stata la polizia molto e infatti è molto sotto accusa, sì, la polizia, certo. In Germania succede che se tu sbagli sei il capo della polizia, vai, hanno mandato via, perché io credo che sia giusto così. In un momento così incandescente non può stare a capo della polizia di Colonia uno che non ha nessuna autorevolezza e è messo sotto attacco. Si deve stare un autorevole. Paese molto civile, paese sì, molto civile. Anna Paola, intanto leggo un sms, un whatsapp che è arrivato da Adria, che dice: è vero o no? Non sembra vero, hanno detto che prima le denunce erano 14, 140 e le 1000 ancora da accertare, mi sembra una manovra per poter cambiare rotta e fare restrizioni sull'immigrazione, come sembra vogliano fare. Mi sembra che le cose invece siano abbastanza accertate. Un po' più complicate. Anna Paola, quello che volevo chiedere è le reazioni sui social, perché è successo ad esempio che Beppe Severnini sia stato molto criticato perché subito ha utilizzato l'espressione immigrati, ha detto che erano stati degli immigrati, ed è successo gli è arrivata una valanga è successo un putiferio. Tra l'altro io avevo commentato il tweet di Beppe Severnini e mutatis mutandis nel mio piccolo sono arrivati un sacco di messaggi anche a me. È difficilissimo parlare di queste cose. Anna Paola, le reazioni sui social a quello che tu hai scritto? Ma guarda, devo dire, i soliti che ti dicono qualsiasi cosa, basta che respiri e ti insultano, insomma, abbastanza questo. questo sì, vabbè, ma quello sono abbastanza abituata. No, cose molto violente non ci sono state, nonostante io abbia detto anche delle cose, insomma, insomma abbastanza impegnative, anche quello di ultimo di oggi, sul fatto che potrebbe essere qualcosa, potrebbe, perché la polizia dice che sono ipotesi, qualcosa di programmato, perché è così strano in tante città contemporaneamente questa cosa. Dopodiché le reazioni sono state molto negative, perché tu accusare, diciamo, perché dici, parlavi del fatto che fossero immigrati, è la verità, che dobbiamo fare? Non è che questa è la verità. Io credo che il buonismo in questo caso non sia è un cattivo maestro, nel senso che non è che si può nascondere il fatto che siano tutti di altre nazionalità. Infatti in Germania certo, non può nascondere nessuno questo. Dopodiché hanno sicuramente rispetto a noi questo. Purtroppo, anzi, forse più di noi sono sereni nel dirlo. Hanno un atteggiamento diverso, cioè non, tranne Pegida, perché infatti la manifestazione di Pegida però l'hanno bloccata, certo, per dirti. Certo. La polizia l'ha più sciolta immediatamente. Cioè le forze politiche non hanno, diciamo, quell'atteggiamento e quel linguaggio e quella cosa che aizza, anzi, cioè dicono state calze, è vero, sono immigrati. Alcuni sono rifugiati, adesso bisognerà provvedere, cioè non è che c'è un accanimento. Certo. Tra l'altro ci sono le donne tedesche che sono state poi le prime a manifestare, che hanno detto no, c'erano i loro cartelli, erano no sessismo, no razzismo. Sì, no? Sì, giustamente, perché cioè, noi non vogliamo essere usati, noi siamo contro il sessismo che vive ancora in Spagna, dove dicono questa cosa, ha ritirato fuori comunque anche una forma di sessismo, cioè il sessismo che c'è ancora, nonostante siano stati fatti grandissimi passi avanti, e però attenzione che no al sessismo, ma non neanche al razzismo, non usate noi contro gli immigrati. Certo. Questo è una grande prova di serietà. Dopodiché è anche vero che io l'ho scritto oggi, cioè è un paese che sta dicendo l'integrazione, c'è bisogno di più di integrazione, perché gli uomini che vengono da altri paesi devono, se vogliono vivere qui e vogliono avere un'opportunità e costruirsi un futuro, devono sapere che qui vivono donne libere, questa è una società libera in cui non ci si permette di mettere mai in discussione questa cosa, e se vogliono stare qui le devono rispettare le regole, se non vogliono rispettare le regole vogliono delinquere e se ne tornano a casa loro. Sì, non è... Però il discorso di Angela Merkel è stato assolutamente, come sempre, diciamo, la Merkel sa sempre trovare le parole del buon senso che assumono poi un peso politico globale. È la sua bravura. È molto sotto attacco. Certo. Oggi si parla qui di più integrazione, perché dicono evidentemente i processi di integrazione non sono stati sufficienti. Certo, sì, perché evidentemente. E nell'integrazione c'è anche il capitolo della sicurezza, e spesso si mettono in contrapposizione, in realtà sono due capitoli dello stesso libro che dobbiamo in qualche modo scrivere. Assolutamente. Quindi... noi in Italia avremmo detto cacciateli tutti, no? Beh, certo. Non tutti, per fortuna. No, molti avrebbero detto cacciateli tutti, molti invece non... molti come hanno fatto. Ma sono tutti buoni. Non si può neanche dire. No? Germania, paese molto più, più. Mi sa che torneremo a parlarne. Anna Paola, ti faccio un esempio. Vai. Un esempio proprio su questo: la comunità turca di Colonia, che è grandissima, la comunità turca in Germania è la più grande, si è messa a disposizione della polizia, è furibonda, si è messa a disposizione della polizia dicendo: guardate, noi vogliamo aiutarvi perché questi delinquenti fanno del male anche a noi. Certo. Grazie Anna Paola. Che meraviglia aver avuto Anna Paola Concia con noi. Grazie Anna Paola, a presto. Ciao, buona Germania. Grazie, ciao, un abbraccio, ciao Anna Paola. E finalmente si parla di elezioni. Vuole parlare di politica. Perché tu sai che in un grande... Basta che togli la notifica. Mi sto crucianizzando, lascia perdere. Togli questa... No, voglio diventare come Cruciani. Togli la suoneria delle notifiche. Va bene, ma mentre la spengo, tu sai che quest'anno si vota in un importantissimo, come si può dire, un'importantissima città, centro della Lombardia, vero, dove succede... Avevi mercato il sindaco? Adesso per il sindaco. Parliamo delle fate anche le primarie. Abbiamo fatto le primarie del centro-sinistra. Io vorrei candidare Mischilla, perché... Emiliano. Rocco è un grande fan di Mischilla. Emischilla è di Vimercate. E quindi dopo la lista Cruciani a Milano, la lista Emiskilla a Vimercate. Guarda, non sono ancora chiari tutti i candidati, quindi secondo me potrebbe anche... Però si vota a Vimercate? Sì, certo che si vota a Vimercate. Chi è favorito, che non siamo in par condicio? Non lo so ancora, perché poi, sai, queste sono le prime elezioni amministrative su Twitter, non solo a Vimercate, in cui c'è la variabile dei 5 Stelle, non solo a Vimercate, anche in altre città c'è questa variabile. Tipo Milano. Però tu hai dialogato con Sala sui social. Sì, ma è una questione di metropolitane. Beh, hai detto poco. Ma no, ma perché se deve arrivare abbiamo, a Monza. Perché abbiamo questo problema delle metropolitane che devono arrivare in oltre Milano. Ma ce l'hanno promessa 35 anni fa, ancora l'aspettiamo. Dall'81 ce l'hanno promessa. Ancora, ma parliamo giovane di Milano, perché io non so niente di queste prime di Milano. Mi puoi spiegare un po'? Allora, tu devi sapere che intanto è bellissimo, pieno di code, hai visto? C'è gente che vuole andare a vedere dal vivo, però queste effettivamente a me sembrano tanto delle primarie social. L'abbiamo detto tante volte, sono le prime, però le altre volte di solito era 1/2 che i candidati che sapevano usare bene i social. Qui certo, ormai certo. sono tutti. È una Quindi, cosa pazzesca. Oltre alla variabile 5 Stelle, che già in altre amministrative e ovviamente sono, era vabbè, però ovvio. Adesso è una novità, almeno per Milano, perché. Perché tutto si fa sui social. Cioè, però c'è la novità dei social, certo. Allora, praticamente Passera ha fatto il video, poi sì. c'è stato lo streaming più o meno. Ha il video quello con le mani in tasca? No, poi ne ha fatto un altro migliore. Anche se, a dire la verità, sì. alla prima presentazione della candidatura sì. è stato uno dei primi a usare i video fatti da Facebook. Sai che adesso c'è questa certo. All'inizio però per 30 secondi si è vista che l'immagine era tutta storta. Però poi dopo hanno capito subito che era un errore, l'hanno messo giusto. Poi c'è Francesca Balzani, che invece è vice sindaco ed è candidata alla primaria del centro-sinistra, che tutte le mattine mette una video intervista, mi pare, su Instagram. E poi c'è stato, ci sono i video. A proposito di Instagram, noi da quanto tempo diciamo che Sala si sarebbe candidato? Bastava guardare l'Instagram da prima che iniziasse Expo. Ma sì, proprio, però perché... ha cambiato totalmente. Non so se hai visto. Adesso c'ha la giacchettina, gli occhiali sono diversi. Certo, assomigliano i tuoi di adesso, questi nuovi. Sì. Un po' hipster, nuovi. Quindi sì. perché si deve un po' umanizzare. Va bene, hai capito tutto. Quindi. Ho capito, no, infatti. Maiorino. Dunque, Sala ha fatto la scelta di non avere l'account Twitter suo, ma ce l'ha Noi Milano 2006, cioè, quindi più istituzionale. Usa molto le foto su Instagram. Balzani usa questi video tutte le mattine. Maiorino invece è bravissimo su Facebook, cioè lui scrive proprio tanti pezzi durante il giorno. Oggi per esempio ha messo: avevo invitato la candidata Balzani, vice sindaco, a un incontro, e ha messo l'immagine della mail inviata o del testo inviato. In un primo momento sembrava che Balzani non accettasse, invece adesso ha accettato, perché Francesca Balzani era un po' offesa perché all'incontro che c'è stato ieri all'Anteo non era stata invitata. Anteo, noto cinema di Milano. Tu eri lì per vedere un film iraniano sottotitolato in tedesco. Sì, all'Anteo e di fianco. No, all'Anteo ci sono solo iraniani. Non è vero. Io ho visto il cerchio e ho. Il cerchio era? Sì. Cos'è quel gesto? Non ti sei ancora ripreso. Ti sto annoiando, quindi va bene. Allora, no, il gesto è che mancano pochi secondi che dobbiamo dare lì al giornale radio. No, è 59, sono 58 e 26. Ti ho spiegato tutto, non mandiamo neanche un video delle primarie. No, non mandiamo neanche un video delle primarie, però abbiamo capito che effettivamente Milano ci sta facendo capire che... Dopo Vimercate è l'elezione più importante di quest'anno. Ma votate lo stesso giorno? Credo che le amministrative non abbiano... magari a Vimercate ha statuto speciale. Va bene, dopo avermi preso in giro, perché io non voto a Milano, ma voto in un'altra cittadina, dobbiamo salutarci. Daniele, l'appuntamento al prossimo sabato. Se volete ascoltare il sabato del villaggio alle 15. Se volete ascoltare Radio Tube alle 17. Noi ringraziamo Andrea Roccabella in regia, Cristian Goldoni, Tanto, come sempre, senza di lui niente, senza di loro niente. Diamo la linea al giornale radio delle 18. Ciao.